Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Trasformare gli oggetti inanimati che ci stanno intorno in oggetti capaci di raccogliere i suoni ambientali, vedremo per farci che cosa, e allo stesso tempo anche di emettere musica. È l'argomento di stasera, lo affrontiamo subito con Marco Pezzola. Buonasera Pezzola. Buonasera. Cofondatore a suo tempo di Soluzioni Ingegneria, società di innovazione e di ricerca e sviluppo nata nell'orbita del Politecnico di Milano, che lavora in particolare nel settore della cosiddetta dinamica dei sistemi e delle vibrazioni naturali. Ed è proprio poi quest'ultimo l'aspetto di cui parleremo stasera. Allora Pezzola, partiamo un po' dalle basi. Come si fa a trasformare una superficie passiva in una superficie che è in grado di captare e anche di emettere dei suoni? Dunque, naturalmente è possibile trasformare una struttura che ha già una missione propria, come appunto una finestra, una porta, un box doccia, in qualcosa di più nobile. Quindi oltre che espletare la sua mansione, possa emettere dei suoni tramite il posizionamento di microattuatori piezoelettrici, okay, opportunamente nascosti. Sì. E che possa allo stesso modo in realtà registrare delle informazioni tramite il posizionamento di sensori, che poi sono simili, più o meno sempre la stessa roba. Parte della tecnologia si basa sul principio fisico del piezoelettrico, quindi è possibile stimolare queste terminazioni piezoelettriche con un segnale elettrico e generare un effetto meccanico, ovvero il contrario, quindi soggette a una sollecitazione meccanica, è possibile rielaborare un segnale elettrico associato. Ecco, questi materiali piezoelettrici, per esempio alcune ceramiche, in pratica se li deformate loro producono un campo elettrico. Tutte le chitarre acustiche, chi le suona lo sa perfettamente, sotto il ponte, cioè lì dove si attaccano le corde, hanno appunto una barretta di materiale piezoelettrico che è quello che converte le vibrazioni della cassa armonica in un segnale elettrico che può essere poi amplificato e ascoltato. Quindi il principio sostanzialmente è questo. Veniamo alle applicazioni, che anche appunto rimanendo tra le quattro mura di casa sono veramente numerose. Una l'abbiamo anticipata e appunto riguarda la musica in qualche modo. Certo, cioè lo stadio più semplice per poter rendere le strutture interno a noi intelligenti è quello di far emettere loro dei segnali percepibili dall'uomo, quindi acustici. È possibile collegare un dispositivo come il cellulare, il computer, ed ecco che tutte le strutture intorno a noi, in casa, in ufficio, in macchina, possono iniziare a emettere questi segnali, stimolate da questi piezoelettrici che ci sono attaccati sopra. Quindi una finestra si comporta come la cassa di uno stereo, per capirsi. Esatto, e così la cucina, magari sto cucinando e il piano cottura diventa... mi parla, certo, mi parla dal momento in cui magari il mio cellulare è collegato alle strutture emittenti e ricevo una telefonata, e quindi a parlarmi sarà il mio amico o mia moglie tramite il piano, certo, di cottura che vibra, esatto, e che funziona, esatto. Potrebbe funzionare anche da microfono, e qui veniamo per certi versi a seconda classe di applicazioni, no? Certo, esatto, perché quando noi parliamo e mettiamo un'onda di pressione, l'onda di pressione impatta su una struttura con naturalmente più o meno caratteristiche adeguate allo scopo. Questa onda di pressione viene rielaborata e il segnale elettrico viene mandato a tutti gli effetti come quello di un microfono. Quindi sarà il piano di lavoro della cucina piuttosto che la finestra sia ad emettere i suoni che io ascolto, sia a percepire quelli della mia voce e poi trasferirli a chi mi sta ascoltando dall'altra parte del cavo. Corretto. Una volta del cavo telefonico. Naturalmente voi potete monitorare vari tipi di suoni, potete prendere la voce umana, ma potete elaborare dei passi per un sistema di antifurto piuttosto che per tenere sotto controllo la salute di una persona, di un anziano, cose di questo genere. E arriviamo alla terza, invece, al terzo filone, diciamo così, che è quello del abbattimento del rumore. Ecco, ci spiega? Certo, cioè diciamo che tutte queste applicazioni più o meno ludiche o più o meno utili sono nate in realtà in un comune denominatore nel tentativo di innovare le pareti, le facciate continue con una capacità attiva di abbattimento del rumore. Cosa vuol dire? L'onda di pressione dell'ambiente limitrofe impatta sulla mia finestra, la finestra viene messa in vibrazione e genera una modulazione di onda di pressione all'interno dell'ambiente che io percepisco come rumore fastidioso. Queste terminazioni piezoelettriche di cui abbiamo parlato sono in grado di decodificare come la membrana sta reagendo, come questa esterno, superficie, diciamo, che può essere magari il vetro, esatto, di una finestra, e quindi, certo, cosa fa? e quindi altre terminazioni, i famosi attuatori, quelli che ci facevano sentire la musica, iniziano ad attuare degli stimoli meccanici con l'obiettivo di dissipare, di ridurre, di rallentare la vibrazione del pannello, frenano, e ridurre quindi diciamo la trasmissione. Così. Perfetto, frenano. Perfetto. Esatto. Va bene, grazie Marco Pezzola. Grazie a tutti. Anche per questa sera abbiamo concluso, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.